America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. House Republican leader Eric Cantor is saying that President Obama walked out of today's debt limit meeting with congressional lawmakers at the White House after the two reportedly clashed over whether to pursue short-term debt relief or a longer-term solution, according to a senior aide. Sviluppi alquanto clamorosi a Washington sul fronte del negoziato sul bilancio. Se pensiamo che da noi la situazione può essere complicata, state a sentire che cosa è successo nella capitale, anzi nella Casa Bianca, dove c'era in corso un negoziato fra repubblicani e democratici. Il presidente Barack Obama, a un certo punto irritato, anzi irritatissimo come in genere non lo vediamo, ha battuto i pugni sul tavolo, si è alzato rivolgendosi a Eric Cantor, il capo della maggioranza alla Camera, e gli ha detto: non chiamare il mio bluff, vedi se vuoi vedere le mie carte, ma io mi rivolgerò direttamente al popolo americano. Negoziato dunque improvvisamente interrotto, dice ci rivedremo domani. Eric Cantor è uscito abbastanza scosso da questo incontro, ha detto che non aveva mai visto il presidente così turbato, ma la situazione qual è? È che Eric Cantor ha provocato. Eric Cantor continuava a dire: ma visto che non ci mettiamo d'accordo, io farò una proposta di un aumento temporaneo del tetto sul debito che il presidente ha sempre detto che non potrà mai accettare. E quando Cantor lo ha riproposto, ecco, Obama si è alzato e se n'è andato. Dunque un negoziato alquanto affascinante, ma anche direi piuttosto pericoloso, perché sentite nel frattempo che cosa ha fatto Moody's, l'agenzia per la valutazione del credito. With time running short for Congress to raise the government's debt ceiling, Moody's says there's a small but rising risk that the government will default on its obligations. Moody's calls the probability of such a default low, but warns it's a risk that can no longer be ruled out. Avete sentito la notizia? Moody's ha messo sotto osservazione per un possibile downgrading, dunque per una riduzione del voto al rischio americano, da AAA a AA, se non si raggiungerà un accordo soddisfacente appunto sul debito. Quindi una pressione molto forte dell'agenzia per la valutazione del credito. Lo dico questo perché evidentemente coloro che pensano che ci sia un complotto delle agenzie per la valutazione del credito, che sono americane, Standard & Poor's, Moody's eccetera eccetera, questo dimostra che non è così. Il complotto non c'è, le agenzie per la valutazione del credito fanno il loro lavoro e ieri hanno delivered a blow, hanno dato un brutto colpo agli Stati Uniti d'America. Long-term unemployment imposes severe economic hardships on the unemployed and their families, and by leading to an erosion of skills, it also impairs their lifetime employment prospects and reduces the productive potential of our economy as a whole. Ben Bernanke, avete sentito la voce molto pacata del governatore della Banca Centrale Americana, è intervenuto ieri mattina davanti al Congresso, davanti alla Commissione Finanza della Camera, per dare un messaggio tutto sommato rassicurante, l'unico che abbiamo avuto nella giornata. E cioè Bernanke ha detto un po' quello che vi avevo anticipato ieri, ha detto che la Federal Reserve è pronta a intervenire per aiutare la situazione economica in caso di un peggioramento della congiuntura. Dunque un QE3, un quantitative easing numero 3, un nuovo intervento sul mercato per acquistare magari per altri 600 miliardi di dollari bond americani e dunque fare un'iniezione di liquidità, ma tutto è possibile. Bernanke è stato chiaro: la Banca Centrale Americana interverrà se si confermerà lo stato di debolezza attuale dell'economia americana e soprattutto se si cominceranno a percepire dei segnali di disinflazione. I'm not happy and I hope we don't have to go to this option. I still want to cut spending. Una situazione di grande confusione, dunque non è soltanto l'Europa a trovarsi in difficoltà e sotto un potenziale attacco dei mercati. Mi domando che cosa succederà fra poche ore qui a New York, quando aprirà l'indice Dow Jones, quando apriranno le contrattazioni sul mercato obbligazionario, perché in effetti quando si vede una situazione così difficile sul piano politico, tutto il mondo è paese. Da noi abbiamo visto che cosa è successo quando c'è stato un litigio fra Tremonti e Berlusconi. I mercati sono quasi impazziti. Io non credo che qua succederà lo stesso. Perché Mitch McConnell, il capo della minoranza al Senato, il capo della minoranza repubblicana, è poi intervenuto nel dibattito lanciando un avvertimento molto pesante al suo partito: attenzione, perché se tirate troppo la corda, alla fine il nostro partito ne soffrirà. Saremo noi i responsabili di un possibile default americano. Non vorrei esprimere qui una posizione editoriale che può sembrare di parte, però il presidente ha dato l'impressione di negoziare in buona fede, ha detto cerchiamo un compromesso, vediamo un pochettino di negoziare una soluzione che possa andare bene a tutti. Ha sicuramente fatto il primo passo quando si è trattato di tagliare spese sociali e ha chiesto un minimo di comprensione dall'altra parte, comprensione che non c'è stata. Cantor è uno degli esponenti dei deputati arrabbiati, è uno degli esponenti che fanno capo al movimento del Tea Party e dunque non vuole sentire ragione. È stato a quel punto che il presidente stizzito se n'è andato e devo dire, dalla dinamica dei fatti, chi ne esce in difficoltà è Eric Cantor. Forse lo stesso canto sta cercando una sua copertura all'interno del contesto politico americano, però il dato di fatto che ho visto poco fa è questo: l'opinione pubblica americana è schierata nella gran maggioranza con la posizione del presidente. Dunque la bizzarria è che questo partito repubblicano che ha conquistato la Camera, che è riuscito a farsi avanti, come spesso succede, ha peccato di arroganza e una gestione forse un po' imprudente da parte di Cantor, sta mettendo in difficoltà anche John Boehner, il presidente della Camera, il quale non a caso è stato zitto, non si è fatto sentire. Io, se posso azzardare un pronostico, penso che alla fine Boehner e Obama si ritroveranno da soli insieme, cercheranno una soluzione negoziata e il problema si risolverà al più tardi entro venerdì 22 luglio, cioè non domani ma venerdì della prossima settimana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il 12 settembre uscirà Portamento, l'ultimo album dei Drums. Il duo di Brooklyn ha anche annunciato l'uscita di un nuovo single per il 5 di settembre. Lo ascoltiamo in anteprima qui su America 24. Ho scelto una canzone direi perfettamente topical con il tema di questa trasmissione dei The Drums, Money. Before I die, I'd like to do something nice. Take my hand and I'll take it for a ride. You hit me yesterday because I made you cry. So before we die, I'd like to do something nice. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!